Ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Città Fujiko, ci troviamo qui oggi in studio per parlare del nuovo libro di Giovanni Riva, Game Over, come ho vinto la mia battaglia contro il gioco d'azzardo e come puoi farlo anche tu. Io sono Martina Santoro, con me c'è Giovanni Riva. Ciao Martina, ciao a tutti. Come prima domanda ti volevo chiedere, è un'opera adatta a tutti? Assolutamente sì, a tutte le persone. Allora, nasce per tutti coloro che in questo momento sono giocatori d'azzardo che vogliono uscirne, quindi hanno bisogno anche di un messaggio di speranza e anche di una guida, un qualcuno che gli indichi come uscire da quel mondo. Ma è un'opera utile anche per coloro che non sono giocatori d'azzardo, ma che magari vogliono sapere qualcosa in più, vogliono capire che cosa succede, come funziona, sia un po' per conoscenza personale, ma anche per poter aiutare poi qualcuno, no? Sapere come approcciare per aiutare qualcuno che sta vivendo questo problema. Questo libro nasce da una tua esigenza personale, da una tua esperienza personale, raccontaci un po'. Allora, questo libro, faccio una premessa, nasce nel 2019, quindi sono passati un po' di anni, l'ho tenuto nel cassetto, e nasce dal bisogno di scrivere quella che è stata la mia esperienza, perché io sono stato un giocatore d'azzardo, io sono uscito da quel mondo, ora vivo una vita bellissima e quindi il mio bisogno era quello di trasferire ad altri questo messaggio, che se ne può uscire e si può tornare a vivere una vita grandiosa. Quindi diciamo che nasce con l'intento di aiutare il prossimo. È rimasto nel cassetto perché pubblicare un'opera così comunque sia voleva dire rischiare anche di stravolgere un po' la propria vita, no? Il pregiudizio dei colleghi, degli amici, ma poi ho preso la decisione di farlo perché sentivo il bisogno di aiutare tutti quelli che si trovano in questa situazione. Certo, certo, soprattutto ecco, con i dati alla mano ultimamente anche tra i giovani sta aumentando questo vizio del gioco d'azzardo, anche con l'avvento del digitale non è più, è reperibile anche appunto attraverso i telefonini. Assolutamente sì Martina, sono pienamente d'accordo con te e oltretutto un passaggio secondo me delicatissimo, e tu hai citato la tecnologia, è che molto spesso il gioco d'azzardo inizia a comparire in forme apparentemente più innocue anche nelle applicazioni di gioco normale, quindi il genitore che dà al figlio l'applicazione con il giochino, in realtà magari quel giochino per avere la vita gratis, per giocare altri 5 minuti, casualmente ha dentro una slot machine, un grattare qualcosa, una roulette, e quindi diciamo che si sta già da subito portando i bambini, le generazioni nuove a ragionare in quell'ottica lì. Puoi lasciarci dei contatti, dove trovare questo libro, dove poterlo acquistare? Il libro si trova su Amazon o comunque sia, anche senza andare su Amazon, magari andando anche su Google, vi basta scrivere Giovanni Riva Game Over. Sono subito tra le prime ricerche di Google, è ordinabile e acquistabile solo su Amazon, sia in formato cartaceo ma anche in formato ebook per chi vuole mantenersi un po' più riservato.